sbagliato. Adesso ne ho l'altro, ne ha comprato l'altro. va bene, allora. Immaginavo che era venuto per picchiato per comprarsi un apparecchio più grosso. Ne ho uno nuovo e volevo un controllo, voleva. Ma non l'ho sentito, dunque. Oh capretto, già va bene. Finita, ormai la frequenza è finita, non c'è mai nessuno. Certo, io mi sono entrato 10 minuti fa, la verità, quindi una cosa all'altra, non è che c'è più tempo di entrare al baracchino o cosa del genere. Qualche volta già entro. E poi sono 3-4 giorni senza entrare. Non c'è più nessuno, cosa entra a fare? Ascoltarmi il QRM. Appunto, infatti io sto accendendo quasi niente, anzi niente. Qualche volta l'accendo, sento che non c'è nessuno, e allora spengo, intanto inizio a stare lì davanti. Adesso volevo sentire se c'era Luca che gli serviva. No, a me non mi serve nessun controllo. Non mi frega niente, a lui che serviva il controllo. Ho capito. L'altro giorno mi hanno mandato un messaggio, volevano il 140, volevano, se lo stavo dando, e gli ho risposto di no, ho detto se non mi ammazza mia moglie, io ho detto. Ehi, tanto cosa te ne fai, se ti capita l'occasione, vendi, te ne basta, tanto non c'è nessuno, c'è una cosa ormai che non è più di moda. Ma Simona non vuole, hai capito, me l'ha comprato lei, quindi a un certo punto cosa lo vendo a fare? E poi comprarlo fa 5 anni, no? Quello sbaglio l'ho già fatto già 2 volte, quindi a un certo punto me lo tengo qua e se la piglia in culo. Funziona bene, è a posto, non c'è nessun problema, quindi mi sta bene qua a casa, non è che mi chiede, non mi chiede soldi, capito? E quello già è vero, ti chiede soldi, in effetti, però voglio dire, se speri che qualcuno rientri, ormai non rientra più nessuno, può capitare sentire qualcuno, ma finisce lì, un giorno sì e 15 giorni non sente nessuno. Ehi, vabbè, c'è anche il lineare di qua buttato, figurati. Il BV 2001. Adesso me lo metto su internet di 100 euro, poi chi lo vuole si compra, come si chiama, se lo piazza dentro, si compra il finale e si ripiazza dentro. No, cioè, intanto qui buttato, lasciarlo così, 100 euro me lo vendo. L'altra volta l'ho regalato, l'ho fatto anche male a regalata, quindi uno si può pensare un bel lineare, un 750, un 550, quello che a 24 volt si fa la modifica dietro, gli fa gli agganci e può pompare il lineare che vuole dei camion, quindi il laboratorio va benissimo. Adesso vediamo un pochettino. Vabbè, quello sì, a qualche camionista gli ha potuto servire, boh. No, a me non mi è mai interessato lineare, no, non mi ha mai attratto più di tanto, anzi, niente di tutto, per cui no, non ne ho mai avuto, no. Non me ne ha fregato mai niente, no. Sono cose inutili, per conto mio. Ah, io ho regalato 2 lineari, già lo sai, da 600 watt, quindi non mi è fregato più di tanto a un certo punto, perché il lineare a valvole è un togliaio a sistemarli, quindi comprare una cosa del genere, devi svuotare tutto, eccetera, eccetera, staccare i cavi, no, non è pazienza io, hai capito? Mi ha regalato e va tanto. Quello che c'è con la transistor, io il 550p del BV 2001, c'ha 4 transistor, c'ha un 4 transistor, volendo vi posso spezzare se la trovo un bel 750 nel classe finale, ci sta giusto giusto dentro, non è perfetto, 24 volt e metteva fuori quasi 1000 watt come quello di Mario Marza. Vabbè, a qualche camionista servirà, vabbè, a parte il fatto che sono fastidiosi perché possono dare fastidio, quello te ne fai io, oltre al fatto che non si possono nemmeno usare, no, a me non mi sono mai interessati, io ho questo omologato, boh, non ho più niente, tutto ho dato tutto, non ho più niente, ho questo e boh. Guarda che io ho l'ideale questo. Ho usato quello vicino e ho fuso l'antenna, perché lo sai già, il cavetto si è sciolto completamente, erano 800 watt, figurati tu, quindi ci vuole per la mantova un bel cavo grosso per poter pompare, bisogna fargli la modifica e hai capito? Per poter pompare 1000 watt, quindi a un certo punto l'ho rimesso a posto, ma gli ho messo un cavo da, forse essere da uno, gli ho messo il cavo da due, ma se pompi 2000 watt ti rimane sempre in mano, il discorso è quello lì, quindi io che faccio la modifica, hai capito? Gli metto un pezzo di rame, un tubo di rame collegato direttamente sopra all'esterno in modo da poter dissipare il calore eccetera eccetera al PL, quindi bisogna fare quel lavoro lì nella mantova turbo. Io ce l'ho la mantova turbo nuova nuova, anche se l'ho smontata, non l'ho più piazzata, l'ho tolta giù da almeno 4-5 anni fa, ma già l'ho usata per più di 10 anni. È nuova nuova quando l'ho smontata e l'ho messa da parte, me l'ho conservata, ce l'ho sempre, ma non mi interessa più, uso la Game Master per quanto mi interessa, ormai ho finito tutto, capito? Ah vabbè, la Game Master già è buona come antenna, 166 euro costa. Poi c'è la Grazioli che l'ho costruito e sembra fatta bene, perlomeno c'è le parte dalla PL direttamente dalla bobina con capito? E quindi puoi pompare quanto vuoi, il discorso è quello lì, quello che mi manca, sai cos'è? La Firenze 2, quella era buona, cioè, era l'unica antenna, potevi portare 3000 watt, non gli è fregato un accidente, non è fregato, il discorso è quello lì, vabbè, sono sparito con l'antenna, era anche la Super Regibus, ce l'avevo e purtroppo l'ho persa a casa di Marcella perché l'affittuario se l'ha fregata lui e non me l'ha voluta più dare, capito? Però è stato con l'antenna che posso pompare 1,5 kW, mezz'onda, non succedeva nulla. Vabbè, poi per il resto cosa ho? Vabbè, l'antenna, la Game Master, sto usando con la Camille, ma la Camille ce l'ho già 15 anni come minimo. Infatti prima era attaccata alla mantova turbo, era attaccata, ma ormai la mantova l'ho tolta, perché picchiava la notte, i radiali, quando c'era vento, picchiava, allora l'ho tolto, mi dava fastidio. Per cui ho pensato alla mantova alla Game Master, e quella l'ho messa anche molto, ma molto più in basso di come era prima la mantova turbo. E vabbè, è lo stesso, arrivo anche a Belchita, arrivo da qui, per cui che problemi ho? Mi va bene così, quando devo fare manutenzione mi metto una sedia, allungo il braccio e stacco il piede, perché è molto bassa, capito? C'è uno del terrazzino. Ce l'ho là, già va bene, no, io ce l'ho là, c'è un terrazzino, l'ho pulita, sistemata e tutto, devo solamente pensarla di nuovo la mantova e sono a posto, devo solamente adesso avere la pazienza di salire sotto al tetto, qua quando finisce questo casino qua, così me la installo. Mi metto in radiale che manca, perché gliene mancano due, ne prendo due i radiali e gliene metto due, la stessa misura con l'alluminio. Quando l'applico e prendo l'alluminio e faccio il foro e va a far cuffia. Ora mamma il figlio. Ho capito, vabbè, comunque non c'è più quell'armonia di una volta, no? Non serve più per sentire che due persone, lui non ne vale più la pena, va. Non ne vale più la pena, vabbè dai che devo fare una telefonata a mio fratello, anche a te, dai ti lascio che a quest'ora è rientrato sicuramente dal lavoro, per cui lo non trovo a casa. Ci sentiamo, ciao Antonè, alle prossime, ciao. E io ciao, alla prossima ci sentiamo, là, stammi bene. Ora funzionare che non tenga che stare le sopra che tu vea il tipo di. Y eso lo que yo estoy usando, eso lo creo Dios, eso lo creo el diablo, para que quede claro. Pero mami, estoy en otro plan. Yo estaba en el tiempo. ¡Suma! Ya tú sabes. Ciao!